in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi le aperture sono un po' diverse, non sono proprio uguali come è capitato ieri o il giorno precedente. Il Sole 24 Ore divide un po' la prima pagina in due: da una parte la politica e l'economia italiana e dall'altra quella americana. Per quanto riguarda l'Italia ci sono le novità sulle cosiddette pensioni ai giovani, che sembra quasi una contraddizione in termini, ma è per spiegare come ci saranno 650 euro anche per chi ha pochi contributi. E dall'altra, naturalmente, nel sommario, che è poi l'argomento che sapete, avete sentito anche nel GR, di cui si parlerà anche ma cos'è quest'estate, dopo la rassegna stampa, la stretta sulle assenze per malattia degli statali. E ringrazio tutti i miei colleghi del Sole 24 Ore che non hanno usato la parola furbetti, perché invece altri giornali l'hanno usata, e lo trovo appunto un vizio linguistico ormai insopportabile. Non è furbo, non è furbetto, non è furbettino, non è furbissimo chi compie questo reato ai danni sia dell'azienda per cui lavora, che sia privata o pubblica, e sia degli altri, di tutti i colleghi che invece rispettano le regole. La parte americana invece è dedicata alle stime sulla crescita del PIL. Noi in Italia siamo molto contenti di averle rialzate a più 1,3%, negli Stati Uniti intanto vengono rialzate a più 3%. Però c'è anche una notizia che viene dall'Unione Europea, con questa fiducia che ha raggiunto un record a 10 anni, e sappiamo quanto sia importante anche questa parte più intangibile e anche più difficile da misurare, se vogliamo, che è la fiducia delle imprese, dei cittadini nel futuro. Ultima segnalazione prima di lasciarci per la prima pausa sul traffico, poi lo vedremo all'interno, un'analisi di Giovanna Mancini, che tra le sue tante competenze ha anche quella sugli enti lirici, segue da sempre la Scala, ma tutti gli enti lirici italiani e i teatri, quindi qui parliamo di cultura e business, con un'analisi di tutti i conti degli enti lirici che migliorano. Però resta il nodo del debito, molti di loro sono appunto ancora fortemente indebitati. Ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ma ancora buongiorno a tutti e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, e all'ascoltatore che mi dice di pronunciare almeno una volta Apple. Lo faccio perché torno sulla prima pagina del Sole 24 Ore che dà la notizia di come si sta evolvendo l'ipotesi della famosa web tax, che quindi coinvolgerebbe, oltre a Google, anche appunto un gigante come Apple. C'era stata questa piccola così questo piccolo sipario su come si pronuncia Apple, perché in italiano non siamo tanto abituati a pronunciarla così. In realtà è proprio così, e non Apple come si dice spesso, poco male. Insomma, è chiaro che si può benissimo sbagliare a pronunciare le parole straniere. In tutti i paesi storpiano orribilmente le parole italiane, quindi, però insomma, comunque c'è una pronuncia corretta e una che lo è un po' meno. Corriere della Sera, la fotonotizia è stata scattata a Venezia con Matt Damon, di cui avete sentito, ha aperto la mostra del cinema di Venezia con questo film Downsizing, che vuol dire letteralmente diminuire di peso, diminuire, lo si usa anche per quando le aziende per esempio licenziano, e lo avete sentito nel GR con il servizio di Cristina Battocletti, che è a Venezia per noi. Però il titolo principale del Corriere della Sera fa riferimento a una lunga intervista che poi trovate a pagina 2 e 3, fatta da Giovanni Bianconi al capo della polizia Franco Gabrielli, che soprattutto risponde alle critiche che sono state fatte alla polizia dopo lo sgombero di Roma. Molto spazio anche alla questione delle pensioni minime per i giovani e all'intervento di Moody's, una delle tre agenzie di rating che hanno alzato le stime sulla crescita del PIL italiano. E poi anche un approfondimento che devo dire interessante di Pierluigi Battista, i simboli cancellati, quelli in guerra con il passato. Sapete che tutto i disordini di Charlottesville in Virginia hanno avuto origine proprio dalla decisione che era stata presa di rimuovere una statua che risaliva alla guerra civile americana. Però non è l'America a parte che si pensa di rimuovere anche alcune statue di Colombo, ma non è l'unico paese che sta attuando questa sorta di revisionismo legato ai monumenti. La prima pagina della Repubblica invece ha un'apertura completamente diversa. È abbastanza è strana la prima pagina di oggi di Repubblica, perché appunto ha delle aperture, dei titoli un po' molto diversi dagli altri, non necessariamente sganciati dalla cronaca, ma appunto diversi. L'apertura principale è sui vaccini. Caos vaccini nelle scuole, con un richiamo a un'intervista che poi trovate al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli a pagina 9, che dice, ammette che c'è il caos, come era prevedibilissimo, lo diciamo da mesi, perché quando un provvedimento viene fatto subito prima e in grande fretta, in mezzo alle polemiche, subito prima della pausa estiva del Parlamento, e poi dopo quando il Parlamento riapre, soprattutto le scuole riaprono, questo era il caos prevedibile. Ma Valeria Fedeli dice no a rinvii. Poi c'è la fotonotizia che prende spunto dal ferimento del profugo eritreo ieri a Roma, di cui avete sentito anche nel GR, con un commento dello scrittore Eraldo Affinati, il cuore stretto nelle strade di Pasolini, e poi anche un intervento di Eugenio Scalfari, che ci regala un lunghissimo intervento che si aggiunge a quelli che già ci regala ogni domenica, e questa volta si concentra sull'Africa, prendendo spunto dal vertice che c'è stato lunedì 28 agosto a Parigi, di cui abbiamo parlato molto. Per quanto riguarda l'EDD, vi segnalo l'intervento di Hilary Mantel, che è una scrittrice britannica, di cui poi su un altro giornale vi segnalerò la recensione, l'ultimo libro che è uscito, e naturalmente la Repubblica lo traduce da un giornale inglese, e il titolo, visto che Repubblica sono già 2 o 3 giorni che dedica articoli all'EDD, quindi oggi bisognava trovare una chiave diversa, appunto tramite gli occhi di questa scrittrice, l'EDD dentro la fiaba sbagliata. Il Messaggero, caso migranti, la miccia di Roma, giustamente il Messaggero si concentra sui fatti di Roma, e la fotonotizia invece è proprio quella dei due principi, William e Harry, che ieri hanno deposto fiori in omaggio alla madre Lady Diana, che è morta appunto nella notte tra il 30 e il 31 di agosto, era già il 31 di agosto perché erano le 3:30 del mattino, mi sembra, a Parigi, del 1997. La Stampa, una pensione minima per i giovani, fotonotizia di Matt Damon, anche in questo caso a Venezia, e poi vi leggo il Buongiorno di Mattia Feltri, perché riguarda ancora una volta il tema dello stupro, l'orrendo stupro di Rimini. Tra l'altro approfitto per dire agli ascoltatori che mi scrivevano ieri, bisognerebbe ricordare sempre che gli stupratori sono nordafricani. Lo abbiamo anche detto, ma il problema è che sono stupratori, esattamente come poi ci sono stati gli stupratori italiani. Vogliamo parlare di quell'orribile caso di cronaca degli stupratori minorenni che hanno stuprato una compagna di scuola, erano tutti italianissimi, quindi certo che va detto che sono nordafricani, non c'è nessuna censura su questo, ma a me comunque continua a non sembrare quello il punto è la violenza sulle donne, la violenza sessuale sulle donne, che credo distrugga, dico credo perché io non l'ho provata, ma credo che noi abitiamo nel nostro corpo, quindi vederlo violato in quel modo una volta credo che non sia una cosa che poi non si potrà mai superare. E allora vi leggo il nostro piccolo stupro di Mattia Feltri. Ogni mattina ci giriamo dall'altra parte e la donna se ne va da scuola come è venuta ad accompagnare il figlio compagno dei nostri figli, interamente coperta tranne gli occhi. Non dovrebbe per dignità e non potrebbe per legge. Ma è così gentile, parla con tutti, ci diciamo. Ha ragione la scrittrice Naomi Alderman, non c'è parità fra uomo e donna perché gli uomini sanno gettare una donna all'altro capo della stanza e non viceversa. Se no, forse saremo noi uomini col niqab addosso e la cosa ci coinvolgerebbe un po' di più. Ed è interessante notare quanto spazio occupino sui giornali e quanti alterchi provochino i 4 stupratori magrebini di Rimini, mentre i 2 italiani bloccati a Maccarese dalla polizia, intanto che cercavano di stuprare 2 ragazze sudamericane e una romana, sono stati relegati nelle cronache locali, Non è per sostenere che gli uomini sono violenti a prescindere da provenienza e religione. Soltanto uno sciocco negherebbe che le donne islamiche se la passino molto peggio di quelle cristiane o occidentali e che gli uomini islamici siano dominati da una misoginia imparagonabile alla nostra, quasi sempre almeno. Ma è per ipotizzare che degli stupri non ci interessino tanto le stuprate quanto gli stupratori, la loro identità, il loro identikit di nemici, il loro target della nostra virile guerra. Altrimenti non ci gireremmo dall'altra parte davanti a una donna che se ne va come venuta, interamente coperta e umiliata, gettandola idealmente all'altro capo della stanza. Questo è sicuramente un tema su cui riflettere, cioè cosa possiamo fare noi occidentali per rispettare quella che è una cultura e una religione, ma allo stesso tempo cercare di far capire che comunque è appunto un'umiliazione. L'Avvenire, guerre tra poveri, in riferimento a quello che sta succedendo a Roma, rissa e assedio a un centro di accoglienza. Sulla questione della mancanza di alloggi a Roma, il sindaco Virginia Raggi è stata contestata ieri. Poi in prima pagina anche la decisione dell'INPS su questa stretta per le assenze per malattia. E la fotonotizia invece è dedicata ancora alla tragedia del terremoto nel centro Italia, di cui è appena passato l'anniversario, un anno. Il 24 di agosto ci fu la prima scossa nel centro Italia e poi naturalmente sappiamo che ci ha riportato tutti per una combinazione del destino, ci ha riportato tutti alle conseguenze di un terremoto il fatto che a Casamicciola due giorni dopo c'è stata una scossa che sappiamo ha fatto tre vittime e ha distrutto e moltissimi sfollati. Il Giorno, vi dicevo questa parola furbetti che qualcuno non si esime dall'usare, che io trovo, ripeto, sbagliatissima, perché non c'è niente di furbo nel fregare il proprio datore di lavoro, che sia lo Stato o che sia un'azienda privata. Acchiappa furbetti, la foto è quella del presidente dell'INPS Tito Boeri, caccia gli assenteisti, da domani visite fiscali dell'INPS, ne faremo 500.000 all'anno, e poi quella questione dell'algoritmo che abbiamo visto anche nei giorni scorsi. A proposito di violenza, in pieno giorno, ieri, una donna di 81 anni è stata violentata per strada. Ecco, se c'è forse qualcosa di più terribile, credo, non lo so, forse è sbagliato comunque fare una classifica di più o meno terribile. In ogni caso, essere violentati quando si è molto giovani, perché, ripeto, è una cosa che probabilmente non è più possibile dimenticare, e quando si è anziani, cioè in due momenti di grande fragilità. Il Fatto Quotidiano, Gentiloni si mangia Renzi, il riferimento è un po' a tutti i sondaggi che danno appunto il premier Gentiloni, che ha sostituito Renzi quando ha dato le dimissioni dopo la sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale, e ha fatto secondo i sondaggi, naturalmente parliamo di maggioranze persone di maggioranze relative che sostengono uno o l'altro candidato, ma in ogni caso secondo tutti questi sondaggi il premier e i suoi ministri più popolari in questo momento, cioè Marco Minniti ministro dell'Interno e Carlo Calenda ministro dello Sviluppo Economico, lavorano per restare. Quindi l'idea che appunto anche in un prossimo governo, quello che uscirà dalle elezioni della primavera e non sappiamo ancora quando andremo a votare, e soprattutto in mezzo, lo ricordiamo sempre, ci sono i due appuntamenti elettorali che potrebbero dare delle indicazioni importanti: da una parte le elezioni in Sicilia per rinnovare l'Assemblea regionale siciliana, e poi il referendum che ci sarà il 22 di ottobre, che sappiamo è un referendum che non avrà conseguenze pratiche, e però è un referendum che consultivo su una maggiore indipendenza di Lombardia e Veneto, e chi vincerà quel referendum anche sicuramente influenzerà poi quello che resta della campagna elettorale che ci separa dalle elezioni di primavera, quando la legislatura andrà a scadenza. Quindi per ora appunto siamo in una situazione in cui non si ipotizzano elezioni anticipate. Il Foglio, come sempre, ricchissimo di spunti. L'articolo del direttore Claudio Cerasa è: perché in Italia la notizia di un delfino spiaggiato indigna di più di chi vuole trasformare la democrazia in uno spettacolo di marionette. Quindi una riflessione sull'importanza che diamo alle notizie nel riportarle, ma anche nel leggerle, e poi anche nel grado di indignazione che abbiamo. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi. Certo, per esempio, scrive una dipendente pubblica, dice: negli ultimi 5 anni ho fatto 15 giorni di malattia, non mi sento un assenteista e sono stanca di questa nomea. Sono le 7:26, inizio alle 7:30, sto per entrare e timbrare con il budget. Ma certo, io non ho mai sostenuto né mai sosterrò che la maggior parte dei dipendenti pubblici sono affetti da assenteismo. Io semplicemente trovo che questo, e lo ripeterò fino alla nausea, perché per me questo tema del furbo come un complimento è una iattura per l'Italia. Il furbo, la scorciatoia, tutte queste caratteristiche che purtroppo spesso si ritrovano nei fatti di cronaca italiani. Ecco questo, ma assolutamente io nelle mie esperienze personali certo abito in una città che su molti fronti è molto efficiente, cioè Milano, però ho avuto ottime esperienze umane ma anche di efficienza quando ho avuto a che fare con la pubblica amministrazione. Però ci sono anche i dati inconfutabili sull'assenteismo, che purtroppo nel settore pubblico, stando a questi dati, è più alto che nel privato. Vi dicevo, la prima pagina del Foglio, prima di lasciarci un attimo per una pausa, anche molti altri spunti, per esempio sulla visita che viene definita la visita promozionale di Donald Trump in Texas, le critiche che gli sono state mosse, analizzate da Mattia Ferraresi. Molto si gioca Donald Trump sulla gestione del disastroso uragano Harvey, che ora sappiamo, dopo il Texas, colpirà, si abbatterà sulla Louisiana. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. All'ascoltatore che ha scritto già ieri, riscrive oggi, e allora gli rispondo. Contesta i dati sulla classifica del PIL. Io ieri ho detto che gli Stati Uniti sono stati superati dalla Cina, questo era successo negli anni passati. Poi ci sono state molte polemiche su come viene calcolato il PIL cinese. Comunque sono testa a testa, possiamo dire così, chissà se questo va bene all'ascoltatore. E comunque nei prossimi anni la maggior parte degli analisti prevedono che ci sarà appunto questo sorpasso dell'economia cinese su quella americana. Torniamo alle prime pagine dei giornali. La Verità: con la buona scuola abolite le bocciature, un approfondimento sulla nuova sulla riforma della scuola, ma la fotonotizia dedicata ai vaccini. La vaccinazione è obbligatoria, ma il vaccino non si trova. Quindi, oltre a tutti i problemi burocratici, alla mancanza in alcune regioni dei moduli, alla possibilità di autocertificazione senza sapere però quando poi all'autocertificazione dovrà seguire un certificato vero e proprio, adesso in alcune regioni si aggiunge anche la mancanza proprio fisica dei vaccini. Bruno Tinti raccoglie uno spunto interessante che riguarda qualsiasi misura che in Italia sia legata alle dichiarazioni dei redditi o all'ISEE o a qualsiasi altro indicatore. E cioè che poi, purtroppo, siccome lo sappiamo, in Italia abbiamo una percentuale di evasione fiscale altissima. Quando si lega una misura alle dichiarazioni dei redditi, poi c'è questo pericolo comunque che questi bonus vadano a persone che in realtà hanno un reddito molto più alto di quello che dichiarano. Questo è un rischio. Credo che chiunque di noi sia stato in una struttura ospedaliera pubblica o in un pronto soccorso veda avvicinarsi spesso agli sportelli persone che non hanno assolutamente l'aria di aver diritto a un'esenzione per reddito, eppure ce l'hanno. Io tutte le volte cerco di protestare, ma ovviamente se il reddito dichiara che una persona ha diritto all'esenzione, a quel punto chi sta dietro lo sportello l'esenzione del ticket la deve concedere. Su questo scrive Bruno Tinti, che da poche settimane ha cominciato a collaborare con La Verità, una volta scriveva per Il Fatto Quotidiano. Elemosina di Stato dai criteri all'evasione, tutte le assurdità del reddito di inclusione. Il Manifesto, titolo molto duro, patto criminale. Perché secondo il Manifesto, questa ipotesi l'avevamo già letta anche sul Messaggero, mi sembra, settimana scorsa, dietro la diminuzione che sta nei numeri degli sbarchi di immigrati in agosto, ci sarebbe un accordo tra l'Italia e le milizie libiche che gestiscono il traffico di uomini. Poi una notizia in prima pagina, così come ieri ce n'era una sul manifesto che nessuno aveva, cioè la nomina del commissario straordinario per il terremoto di Casamicciola, che mi sembrava comunque una notizia importante. Oggi il manifesto torna sull'emergenza Abruzzo, che se è un'emergenza non si capisce come possa essere già finita, però sui giornali è già difficile trovarne traccia. Invece il manifesto torna su questa emergenza incendi e in particolare su come siano ancora gravi e come siano ancora non domati nella regione dell'Abruzzo. Il giornale: l'Italia sta per esplodere, il riferimento a quella che viene definita la polveriera immigrazione. La fotonotizia però si lega a una lunga intervista che poi trovate a pagina 8 di Andrea Radice a Matteo Salvini, in cui si parla soprattutto del cibo secondo Matteo. Libero: elenco dei papponi che si arricchiscono con la tratta dei neri. Un'inchiesta commentata da Franco Bechis, vice direttore di Libero, e Vittorio Feltri, direttore di Libero, sul fatto che nel 2016 ci sono stati dei fatturati milionari per COP e associazioni cattoliche che si occupano di gestione dell'immigrazione, dei centri di prima accoglienza. Vi leggo la rubrica di Filippo Facci. Libero, come il giornale in particolare, come La Verità, è sicuramente uno dei quotidiani che con più violenza, perlomeno verbale, attacca il presidente della Camera Laura Boldrini. Ieri io ho detto che di fronte a tanti attacchi per il fatto che lei stava zitta, di fronte a lei che è una esternatrice di professione su qualsiasi tema, non aveva commentato il fatto che gli stupratori di Rimini fossero nordafricani, di questo la si accusava. Io ho detto che di fronte a un'accusa così, persino a me, che non sono certo una sua fan, veniva di difenderla. E oggi la rubrica di Filippo Facci si intitola Brava Boldrini, ve la leggo. C'è un pochino di ironia, però credo che la sostanza sia, almeno io la condivido. Se questo è un giornale liberale, deve registrare anche il mio dissenso circa le critiche mosse a Laura Boldrini, colpevole, secondo la Vulgata, del suo silenzio sui fatti di Rimini e sul musulmano che ha relativizzato gli stupri. Lo dico a Giorgia Meloni, che ha accusato la Boldrini di aver taciuto in nome della difesa ideologica dell'immigrazione di massa. Lo dico ad Alessandro Sallusti, che l'ha invitata a fare un appello alle comunità di immigrati che proteggono gli autori dello stupro. E lo dico a Mario Giordano, secondo cui... questa secondo me è la più terribile di tutti, naturalmente è una mia aggiunta, aperte virgolette, una modella in bikini attira le sue reprimende più di un islamico che inneggia allo stupro, chiuse le virgolette. Proprio Giordano si chiede, a proposito del marcato interventismo della Boldrini, se non ora, quando? Risposta: mai. Perché ha ragione lei, la Boldrini, non commento gli accadimenti del giorno, non è il mio lavoro, non lo è, purché stia zitta sempre, perché il suo lavoro è questo, tacere e provvedere al funzionamento della Camera e all'applicazione del regolamento, più altri compiti che nulla spartiscono con la funzione morale, etica, politica e soprattutto parlante che la signora si è data da sola, a dispetto di quanto accade all'estero e di quanto dice la Costituzione. Io faccio una battaglia anche per chi non ha voce, ha detto l'altro giorno la Boldrini, ma non ha voce perché non esiste, perché la voce in Italia si delega con il voto. E è presidente della Camera, ha voluto la bicicletta, ora stia zitta, ha ragione, brava Boldrini. Vedremo se appunto si è trattato di un episodio isolato, questo del suo silenzio sui fatti di Rimini, o se presto ci regalerà altre esternazioni. Così rispondo all'ascoltatore che mi dice perché uso il verbo regalare per gli editoriali di Scalfari. C'è naturalmente un pizzico di ironia, io non apprezzo più queste lenzuolate, che siano domenicali o che siano di altri che appaiano durante altri giorni, e quindi appunto con una piccola dose di ironia, che spero mi concediate, ho usato il verbo regalare. Vediamo velocemente le prime pagine dei giornali, anche perché c'è un tema che mi sta molto a cuore e che ho citato anche ieri, ma riciterò oggi. La Frankfurter Allgemeine, il quotidiano, uno dei pochi quotidiani tedeschi a larghissima diffusione, generalisti, poi c'è la Bild, che nominiamo sempre, ma è un tipo di giornale diverso, è un tabloid. La Fraz torna sulla questione della disputa per ora solo verbale verbale tra Turchia e Germania e soprattutto sull'integrazione che riguarda molto in Germania i turchi, perché sapete che ci sono tantissimi turchi in Germania. E la foto in prima pagina, che è una torta molto tedesca con la panna montata, le scaglie di cioccolato e le ciliegie, evoca appunto questa discussione accesa da Aydan Özoguz, che è sottosegretario nella cancelleria per le questioni di integrazione. Questa signora aveva detto che non si possono riconoscere elementi specifici di un'identità tedesca, e invece su questo si può molto discutere, cioè se la Germania, la cultura tedesca come quella italiana, come quella francese, come quella di qualsiasi paese, abbia delle sue specificità che vanno protette secondo molti. Un commento sul mercato del lavoro, perché è vero che in Germania c'è un tasso di occupazione quasi totale, però il commento, appunto, perché sulla prima pagina della FAZ ci sono richiami a fatti di cronaca ma anche commenti brevi o lunghi, è un commento che dice che politicamente è comodo avere tanti posti di lavoro qualificati non coperti, perché non c'è nessuno che protesta. A lungo termine però è pericoloso non occuparsi di questa emergenza, di questo risvolto dei buchi nel mercato del lavoro. Vi dicevo i giornali stranieri perché mi ha fatto, naturalmente i giornali americani giustamente hanno tantissimo spazio per l'uragano Harvey, le conseguenze che si possono già cominciare a valutare sul Texas in termini di persone che hanno perso la vita, persone che hanno perso la casa, danni alle infrastrutture. Però il Guardian mette in prima pagina una foto che è molto simile a quella che i giornali americani mettono in prima pagina di persone magari che camminano con l'acqua fino alla cintola, scattate naturalmente per esempio a Houston. Il Guardian fa lo stesso ma con una foto scattata in India. Perché se a Houston sono circa 40 i morti e 30.000 forse gli sfollati, in Nepal, India e Bangladesh, per le piogge monsoniche di cui abbiamo parlato anche ieri, sono 1.800 i morti, 1,8 milioni i bambini che non potranno andare a scuola non si sa per quanti anni, tantissimi sfollati, ma nei termini di milioni, non di migliaia. E io davvero mi stupisco come su non c'è giornale italiano che dà conto di questa tragedia che è successa, che ha colpito Nepal, Bangladesh e India. E tra l'altro in realtà ho detto una cosa che non è del tutto vera, perché il Manifesto, unico giornale tra quelli che io ho in mazzetta, ma ce ne sono parecchi, quindi penso che sia proprio l'unico, a pagina 9, ve lo anticipo subito, alluvioni in Asia, il Manifesto addirittura parla di 1.400 morti. Qui c'è subito un po' una vena polemica, a gioco facile il Manifesto a scrivere così: mentre il mondo si concentra sull'uragano Harvey in Texas, sono oltre 1.400 i morti in India, Nepal e Bangladesh. Centinaia di migliaia di case distrutte, villaggi spazzati via, terre agricole devastate. In 24 ore è caduta la stessa pioggia di un mese. Ci lasciamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Solo una precisazione, oltre a un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, tutti, proprio tutti, anche quelli che mi criticano, sottolineano degli errori. Una donna, c'è un ascoltatore che mi dice: una donna che odia una donna. Io non odio nessuno, e men che meno odio Laura Boldrini, non farei comunque nessuna differenza tra l'odio verso una donna e l'odio verso un uomo. Io ho detto che non l'apprezzo, non sono una sua fan, è una cosa completamente diversa dall'odio. Vi dicevo dalle pagine interne del Sole 24 Ore questa bella inchiesta di Giovanna Mancini sugli enti lirici, con oltre a un articolo che illustra le conclusioni del suo lavoro di osservazione di tutti i bilanci dei maggiori enti lirici italiani, c'è anche uno schema che ci fa capire quello che con il maggior numero di entrate è il Teatro La Scala di Milano, che è anche uno dei più grandi teatri lirici del mondo, ma ce ne sono tantissimi altri, e il problema, come dicevamo, è quello del debito. Imprese e territori invece si concentra con un articolo di Giuseppe Latour e un altro approfondimento sul trasporto ferroviario di Marco Morino sull'arrivo di Flixbus, che è quella nuova modalità di utilizzare il trasporto, gli autobus. Sì, abbiamo avuto la grande rivoluzione degli aerei low cost, delle compagnie low cost in Europa, soprattutto Ryanair e EasyJet, ma ci sono anche gli autobus low cost. L'arrivo di Flixbus rivitalizza le linee sui lunghi percorsi. Pensate che negli ultimi 2 anni il mercato è cresciuto del 15-18%. L'agenda del professionista è arrivata alla 23ª puntata. Oggi trovate tutto a pagina 18 del dorso di norme e tributi, e l'argomento principale è la reverse charge, settori interessati, grossisti e dettaglianti, e poi il regime sanzionatorio. Sulla questione dei controlli, dei nuovi controlli per chi dichiara di essere malato e quindi sta a casa, una pagina intera sul Corriere, con molto schematica, quindi anche molto utile, guida pratica ai nuovi controlli. Anche il Corriere cade in questa trappola di dire furbetti. All'ascoltatore che mi dice che furbetti usato in modo dispregiativo, io purtroppo non sono convinta tanto di questo. Sembra quasi sempre che ci sia una sorta di complimenti, tu che sei riuscito a fare il furbo, appunto. Ma forse è una mia tara di vedere furbi dappertutto e vedere sempre la furbizia come una cosa negativa. Vi dicevo della completa mancanza delle notizie sulle piogge torrenziali monsoniche che hanno sconvolto Nepal, India e Bangladesh. Paola De Caloris ci parla di India, ma per una questione completamente diversa. Tra l'altro è un reportage fatto da Londra, perché c'è una da Londra che ovviamente per ragioni storiche legate al colonialismo, legami molto stretti con l'India, si parla di questo ospedale nell'Uttar Pradesh, che è una regione a nord di Nuova Delhi, dove c'è un ospedale dove ci sono stati 217 decessi in un mese per l'encefalite, ma anche perché è finito l'ossigeno. E qui il tema amplissimo, naturalmente, del fatto che molte vite in paesi non occidentali potrebbero essere salvate, e molte malattie che noi siamo riusciti a deballare potrebbero essere deballate anche lì con l'impiego di alcuni farmaci. Un caso su tutti, la malaria in Africa. La malaria è una malattia curabile, però in Africa fa ancora tantissimi morti. Una pagina intera del Corriere dedicata a questa sciocchezza che hanno detto in Gran Bretagna, cioè che il prosecco rovina i denti, è proprio una fake news. Qui il termine è assolutamente adatto. E non so bene perché, ma in questa stessa pagina c'è anche un'intervista a Agostino Gramigna, a Vittorino Andreoli, non contenti di aver già dedicato una lunghissima recensione su mi sembra 7 o su Io Donna, a Vittorino Andreoli su questo libro. Vittorino Andreoli è uno psichiatra, molto prolifico e molto presente in televisione. Il suo ultimo libro si intitola I principi della nuova psichiatria. E come già avevo detto quando avevo segnalato l'altra intervista, io, per carità, sarei contentissima se fosse così, ma questi proclami che la malattia mentale è debellata, che si può curare qualsiasi malattia mentale, che fa Vittorino Andreoli, mi lasciano abbastanza scettica. E tra l'altro lui, che è psichiatra, quindi soprattutto dovrebbe usare i farmaci per curare, dice: meno sedute più scienza, ecco la nuova psichiatria. Non so, vuol dire tutto e niente, mi sembra. Lo psichiatra Agostino Gramigna, come capirete, il tema mi sta molto a cuore, perché trovo che sia terribile ancora lo stigma sociale che c'è sulla malattia mentale. E anche qui poi dovremmo intenderci su che cosa intendiamo per malattia mentale, e anche su chi prende per esempio dei farmaci che però sono solo delle stampelle. Come nella maggior parte delle malattie, il farmaco non è mai risolutorio e comunque ha sempre degli effetti collaterali. E allora, per esempio, chiede Agostino Gramigna: i farmaci, se ne fa abuso? E Vittorino Andreoli risponde: siamo fermi. Dal 1953 al 1961 sono state scoperte casualmente 4 famiglie di farmaci tranquillanti antidepressivi. Oggi abbiamo, abbiamo appurato che le malattie dipendono dai tre fattori che dicevo prima, cioè biologia, personalità e ambiente, che occorre agire su un encefalo plastico. I farmaci sono generici, sedano o smuovono, ma non servono a combattere la singola malattia. Le case farmaceutiche stanno cercando, ma al momento siamo fermi. È trattato bizzarro che appunto poi in realtà in un'altra intervista abbia dichiarato che la malattia mentale ormai si può considerare curabile. L'inchiesta di Repubblica sull'abusivismo prosegue oggi con una puntata da Mani sul volante, per citare Alessandro, e approfitto anche per dire a tutti gli ascoltatori che lo evocano, ai quali manca la voce di Alessandro e la personalità di Alessandro, che da lunedì torna con la sua nuova trasmissione a partire dalle 9. Anch'io ne so pochissimo, sarà un po' una sorpresa per tutti, quindi si sposta un pochino di fascia oraria, però torna assolutamente con il nuovo palinsesto di Radio 24. Vi dicevo, questa inchiesta, tribunale, scuole, palazzetti sportivi, ecco l'Italia dell'abusivismo di Stato, perché così come abbiamo scoperto che la sede della Protezione Civile di Casamicciola era a sua volta in un edificio abusivo, adesso ci sono anche tutti questi altri dati. Lunga intervista, pagina 13 di Repubblica, al direttore della RAI, direttore generale della RAI Mario Orfeo, che prima era stato direttore del TG1, che spiega come vuole cambiare la RAI. Su Vespa dice che gli verrà proposto un taglio del compenso. Alla Milena Gabanelli, che non conduce più Report già dalla scorsa stagione, verrà affidato un portale anche in un'ottica di guerra alle fake news. E Roberto Benigni tornerà a Rai 1, quindi non so, queste sarebbero le grandi novità della Rai di Mario Orfeo. Molto interessante il reportage di Jaime D'Alessandro dal quartier generale di Amazon, che fa sempre notizia, o perché fa acquisizioni o perché viene accusata di fare in un certo senso dumping sul retail fisico. Nel cuore di Amazon, tra cani, computer e piante carnivore, ecco il nuovo regno di Jeff Bezos. Della Sicilia, sulla Sicilia sorvolo con tutte le beghe soprattutto nel centro-sinistra, e vi faccio solo un'ultima segnalazione dall'Avvenire per completare il fatto di cronaca che avevamo raccontato da Londra, della bambina cresciuta in una famiglia di religione cristiana. Ora si è deciso che questa bambina cristiana torni dalla nonna e non sia più affidata a una famiglia musulmana, quindi stoppa questo affido dopo il clamore dei media. La piccola di 5 anni vivrà con chi condivide le stesse origini culturali e religiose, e c'è anche stata aperta un'indagine su come si sono comportati i servizi sociali in questa vicenda. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora un buon giovedì a tutti, appuntamento a domani per l'ultimo appuntamento delle 7:10 con la rassegna stampa dei quotidiani italiani.